Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! E allora, come di consueto, sulle note di Chili con Tofu, comincia... La gazza ladra. No, ora comincia Radio Possum, questa volta veramente ultima puntata prima delle, chiamiamole, vacanze estive, tanto rimarremo tutti a Roma a schiuma de caldo, però insomma, e poi ci risettiamo a settembre. L'ultima puntata prima della chiusura estiva la facciamo con sentiamo al telefono dei ragazzi di un gruppo antispecista dell'Emilia Romagna, si chiamano Essere Animali. La scorsa puntata abbiamo parlato con quelli di Nemesi Animale, adesso parliamo con loro, gruppo di attivisti antispecisti, divulgazione, investigazioni, documentazione e molto molto attivismo per strada per documentare, combattere e contrastare lo sfruttamento degli animali in ogni campo e per qualsiasi scopo, dall'alimentazione alla pelliccia, dalla vivisezione al divertimento come zoo, circhi, delfinari e via dicendo. E sì, e poi naturalmente questa trasmissione la dedichiamo proprio con tutto il cuore al compagno che ci hanno portato via nei giorni scorsi. Se ci senti dal carcere, Fagiolino, te la dedichiamo tutta sta canzone, te dedichiamo sta trasmissione e naturalmente pure a tutti gli altri compagni che ci hanno portato via nei giorni passati con l'operazione Ardire. E a tutti coloro che sono in prigione in Italia, in Europa, nel mondo, a tutti coloro che sono in prigione soprattutto per ragioni politiche, per il loro impegno, che sia per ragioni sociali, che sia per ragioni animaliste, che sia per ragioni ecologiste, poi di questo parleremo, diciamo così, nella seconda parte della trasmissione. Mandiamo un po' di musica. Eccoci in diretta, ci senti? Sì, vi sento. Ciao, okay. A tutti. Ciao Simone. Ciao, vi sento male? Ci senti ora? Sì, un po' meglio. Ok. Ok, ti abbiamo presentato prima che ti chiamassimo, comunque facciamo un velocissimo riepilogo. Attivista di essere animali, scusa, mi ero impicciato. Un gruppo antispecista dell'Emilia Romagna, no? Ci dici un po' come siete nati, come è nata questa idea? Immagino molti di voi vengano anche da esperienze precedenti in difesa per la liberazione animale della terra. Esatto, niente, Essere Animali è un progetto che nasce da circa un anno e molte attiviste che, diciamo, lo compongono, che sono in prima linea, già da più tempo comunque si dedicavano alla liberazione degli animali della terra, finché è venuto un po' il desiderio di muoversi in maniera un po' diversa dalle precedenti, e abbiamo creato questo gruppo Essere Animali, che principalmente con le iniziative pubbliche è attivo in Emilia Romagna, dove cerchiamo di diffondere il messaggio dell'antispecismo e il messaggio di rispetto verso tutti gli animali, e quindi la prima, diciamo, applicazione pratica dell'antispecismo, che è la diffusione dello stile di vita vegan. Ok, senti, ci puoi dire un po', voi è più o meno un annetto, no, che siete, diciamo... No, io ti sento un po'... ti sento male. Adesso ci senti meglio? Sì. Ok, no, dicevo, voi siete più o meno un anno che siete che è nato Essere Animali. Ci vuoi dire un po' le vostre attività finora, in particolare quella più rilevante che è stata in questi mesi, diciamo? Sì, allora facciamo tante attività, abbiamo diverse finalità. Inizialmente quello a cui teniamo molto è una sorta di diffusione dello stile di vita vegan anche per strada, quindi facciamo moltissime azioni dimostrative, conferenze, cene benefit, corsi di cucina, presentazioni e un altro ampio progetto su cui diciamo diamo attenzione è quello delle investigazioni. Infatti recentemente, diciamo verso la fine di marzo, l'investigazione principale che abbiamo fatto sulle galline ovaiole. È un'investigazione che ci ha visto partecipi da fine novembre del 2011 fino a marzo del 2012. Ma mi senti che io sento un rumore di fondo incredibile, scusa? Guarda, sì, noi ti sentiamo. Noi ti sentiamo benissimo, mo proviamo proviamo un po' a smanettare sul mixer per risolvere. Guarda, comunque i mezzi tecnici sono quelli che sono, purtroppo dei problemi sono inevitabili, però noi ti sentiamo, comunque se non ti sentiamo casomai ti interrompiamo noi. Pronto? Sì, ci senti? Simone, ci senti? Ok, mi sa che credo che sia cascata la linea perché non si sente più. Cerchiamo di richiamarlo. Ok, allora, perfetto. Inizia subito bene pure questa puntata. Vi rimettiamo la canzone e cerchiamo di richiamarlo. Allora, ci riproviamo, ci senti? Sì, adesso vi sento bene, chiedo scusa ma prima sentivo malissimo con del rumore di fondo, non sapevo neanche se ero in diretta o se era già saltata appunto la diretta stessa. Possiamo riprendere, adesso vi sento bene. No, figurati, noi comunque ti sentivamo bene, cioè diciamo tu andavi in onda perfettamente, mi sa che okay. Erano col mixer facendo. Quindi ripiglio da dove sì. ho continuato. Sì, sì, d'accordo? Esatto, dove allora, come dicevo, Essere Animali si occupa di diffondere l'antispecismo e di diffondere il rispetto verso gli animali. Il nostro lavoro principale, quello che ci ha visto impegnati negli ultimi mesi in maniera più proficua, diciamo, è stata un'investigazione che abbiamo compiuto dalla fine del novembre 2011 fino al marzo del 2012, un'investigazione sulle galline ovaiole. Abbiamo fatto questo lavoro per svariati motivi, in primis sicuramente per cercare di ridare un po' di dignità a una specie animale, appunto la gallina, che è sicuramente una delle più sfruttate, diciamo, nel panorama completo di quello che è lo sfruttamento degli animali, e l'abbiamo fatta appositamente cercando di parlare di uova e quindi cercando di parlare di quelli che sono i derivati, i cosiddetti derivati, perché molte persone che magari sono già un pochino sensibili al rispetto degli animali possono percepire inizialmente come la carne o il pesce sia un alimento che sia frutto di una crudeltà proprio diretta, però molte persone non allargano, diciamo, questo ragionamento anche ai cosiddetti derivati, quindi al latte e alle uova, e così abbiamo preso lo spunto per parlare un pochino di galline e appunto di uova stesse. E per far questo noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa semplicissima, siamo entrati negli allevamenti con macchine fotografiche e la possibilità di realizzare delle riprese video, e ne abbiamo visitati tantissimi. In Emilia Romagna ci sono circa 8 milioni di galline che sono rinchiuse negli allevamenti, ci sono 213 aziende, noi abbiamo visitato all'incirca 27 di questi allevamenti, e quindi più o meno si potrebbe stimare il 10% delle strutture stesse. Allora, come... Sì, ci senti? Pronto? Sì, ci senti? Sì, un po' scatti. Ok. No, scusa, ti ho interrotto, volevi dire qualcos'altro? No, okay. Prego. Ti volevo chiedere una domanda, sennò io parlo a ruota. No, sì, ti volevo chiedere questa cosa, proprio relativa al fatto di entrare, no, nell'allevamento documentare e di trovarsi di fronte a quello che ci si trova, cioè la cosa un po' che fa riflettere è che comunque gli allevamenti sono dei posti vicini a noi, non è che è un mondo a parte, un altro pianeta, sono dei posti che sono al nostro fianco e sono dei campi di concentramento, cioè un po' questa analogia, esattamente come molte persone durante il nazismo ignoravano l'esistenza di strutture, o meglio le conoscevano ma ignoravano a che cosa fossero sì. State, perché cosa fossero state create e che cosa si succedeva realmente all'interno di queste strutture, e molte volte le persone ignorano il più delle volte che cosa sia veramente un allevamento, anche da un punto di vista non soltanto produttivo, tecnico, ma anche da un punto di vista emotivo, cioè il dolore, la sofferenza degli animali, la noia. Ti voglio chiedere che impatto emotivo avete avuto nell'entrare all'interno di una di queste strutture? Ma è un po' una cosa, penso, indescrivibile, perché come hai detto giustamente te all'inizio, è anche una cosa un po' che teniamo a dire con essere animali, veramente lo sfruttamento di questi esseri viventi è tutto attorno a noi e quello che vogliamo fare con essere animali infatti è anche un lavoro molto locale per fare comprendere a tutte le persone che veramente questi luoghi, questi piccoli e grandi campi di concentramento sono veramente a pochi chilometri dalle nostre teste. Infatti con l'investigazione Fabbriche di Uova siamo risaliti addirittura a controllare questi allevamenti direttamente dalle uova del supermercato, perché il primo grande lavoro di Fabbriche di Uova è stato quello semplicemente di entrare nei supermercati e dentro le uova c'è, diciamo, non dentro, all'esterno delle uova c'è un piccolo numero che da cui risale all'allevamento da cui proviene appunto quel prodotto, e quindi noi abbiamo visitato gli allevamenti le cui uova sono direttamente nei supermercati acquisibili a tutti quanti. E tornando al discorso principale, cioè quello che abbiamo trovato è veramente qualcosa di indescrivibile. Molte volte quando si cerca di reperire informazioni su quello che è lo sfruttamento degli animali, anche sulla rete, su internet, è molto facile trovare scene di una crudeltà incredibile, dove magari anche gli addetti ai lavori incrudeliscono sugli animali, o vi sono scene molto molto forti. Noi abbiamo voluto, oltre a questi casi che purtroppo ci sono, lo sappiamo, in ogni posto vi sono animali agonizzanti, animali morti, però abbiamo voluto più che altro porre l'accento su quella che è un po' la violenza sistematica dell'allevamento. E quindi, come dicevi te, la noia, l'apatia o tanti altri malesseri che colpiscono questi esseri viventi veramente ogni secondo della loro vita, che seppur breve è una vita veramente di completa indicibile sofferenza, diciamo. Senti, diciamo, non so se ci vuoi fare anche un commento su quella che secondo te è la situazione attuale del movimento antispecista in Italia, su cosa dovrebbe puntare, come portare avanti queste lotte, dove dobbiamo andare a parare? Sì, allora, questa è un po' una riflessione mia personale, ma anche spero che coinvolga anche tanti altri attivisti di essere animali. Noi col tempo abbiamo visto che comunque è molto importante la comunicazione verso le persone, e noi cerchiamo di comunicare una sorta di empatia che crediamo che tanti esseri umani possiedono, però abbiano un pochino perso anche forse complice lo stile di vita di questa società. Ad esempio con esseri animali puntiamo molto nelle investigazioni, appunto come dicevo prima, in Fabbriche di uova per far sì che vengono fuori proprio i volti e gli sguardi di quelli che sono questi prigionieri di queste industrie che si nutrono veramente di vita, di esseri viventi. E a volte veramente forse una fotografia, un'immagine vale più di mille parole. Con questo non voglio dire che non servano comunicati ben scritti o non serva un'informazione adeguata e appropriata. Comunque noi cerchiamo di dare molta importanza alla comunicazione, appunto, verso le persone, verso cui cerchiamo di diffondere questo messaggio, cercando di far capire a questi che si devono un po' mettere nei panni degli animali, che è una cosa un po' controsenso, che deve superare veramente una barriera di specie enorme, però alla fine tutti questi animali soffrono, lo sanno, è una cosa, è una constatazione molto banale, lo sa qualunque persona, anche i bambini veramente piccoli lo apprendono e lo capiscono subito. E da capire questa sofferenza può a volte, speriamo, il passo essere breve e il passo dovrebbe appunto sussistere in cambiare almeno principalmente il proprio stile di vita e approntarsi appunto verso uno stile di vita vegano. Poi ovviamente, se uno ci crede fino in fondo, diventare attivista, muoversi, comunque agire in prima persona. Io non so se queste siano, diciamo, gli input principali verso cui dovrebbe spingersi tutto quanto il movimento di liberazione animale in Italia. Penso che ci sia molto da lavorare, che questi possono essere dei buoni presupposti. Ecco, a questo proposito, recentemente un po' la vicenda di Green Hill ha un po' sollevato una vastissima partecipazione, sì, quasi una partecipazione popolare vera e propria, no? Il che ha avuto dei pregi e chiaramente ha dei difetti, un po', insomma, il solito problema del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, cioè moltissime persone che si accostano, seppur in maniera anche superficiale o anche in maniera molto selettiva, cioè non completa, non ponderata, certo, al tema dello sfruttamento animale, su un caso eclatante che è la vivisezione, ed è la vivisezione poi sui cani, quindi su una specie di animale che muove interessi, per cui c'è molta empatia, esatto, muove una partecipazione emotiva molto forte. Il che tutto sommato ha portato anche, per esempio, l'occasione del 28 aprile della liberazione, diciamo così, di massa di cani da Green Hill. Sicuramente è stato un evento comunque importante e positivo al di là della cosa in sé che è successa, quindi del numero di animali che sono stati liberati da un luogo di sfruttamento, ma proprio anche per la dimostrazione di una massa di persone, no? Un po' come succedeva magari in Inghilterra 20 anni fa, quando ci sono queste grosse liberazioni a giorno, in pieno giorno, dagli allevamenti. Dall'altra però c'è tutto un controcanto, diciamo, di parte questa partecipazione che poi spesso è appunto superficiale e che quindi rischia da un momento all'altro di rarefarsi, di scomparire, se poi si sposta su altri argomenti, per esempio l'allevamento degli animali da reddito. E poi ovviamente c'è anche la questione della strumentalizzazione dei politici, un nome che più rigore è quello della Brambilla. Ecco, ti volevo dire, cioè ci si muove da una parte un aspetto positivo e dall'altra l'aspetto negativo. Secondo te, secondo voi, come si può, insomma, tirare da questa situazione inedita forse per il movimento antispecista italiano, come si fa a tirare fuori gli aspetti positivi e cercare al tempo stesso però di eliminare o comunque di controllare quelli negativi, per esempio escludendo, tanto per dire un esempio, la strumentalizzazione dei politici o l'infiltrazione di gruppi comunque fascisti, di destra, che possono essere sì animalisti ma che poi su tutto il resto propongono una mentalità di discriminazione, di violenza, di sopraffazione. Ma io penso che già con queste parole veramente hai descritto perfettamente la situazione che si è venuta a creare ultimamente in seno alla campagna contro Green Hill. Hai detto bene anche te che da un lato c'è sicuramente la forza di questo movimento che si è trovato un po' anche sotto l'occhio dei media, tutto all'improvviso, tutti quanti si sono mossi per questi cagnolini, però questo ha portato dei pro e dei contro che probabilmente sono, se ci pensiamo bene, un po' inevitabili, perché la situazione a un certo punto è diventata, non ingestibile, però comunque era difficile da gestire, con tantissime persone molte volte male informate che si avvicinavano alla lotta, volevano ovviamente dire la loro. Io penso che, come detto, queste siano cose assolutamente inevitabili, che bisogna fare tantissima informazione, cioè noi come esseri animali abbiamo anche condiviso e solidarizzato con il coordinamento Fermare Green Hill, perché si è trovato in mezzo a una lotta molto grande, con un tentativo di strumentalizzare la situazione da parte dei politici. Penso che bisogna cercare di comunicare sempre con le persone, cercare proprio di sconfiggere il qualunquismo che purtroppo c'è dentro tanta gente che magari si avvicina, muove i primi passi appunto perché spinti dall'empatia per i cani. Comunque anche noi abbiamo partecipato personalmente a tanti cortei, comunque insistendo con le persone, parlando loro, spiegando che l'antispecismo è una lotta contro tutte le discriminazioni, quindi è una lotta contro anche le discriminazioni degli esseri umani verso altri esseri umani, come te prima dicevi, vi sono tentativi di, diciamo, infiltrazione di movimenti animalisti legati molto vicino alla destra o all'estrema destra. comunicando con le persone, comunque le persone riescono a capire questo, quindi sicuramente ci sarà una sorta di cernita, mi viene da dire, col tempo, che quindi molte persone che di fatto rimangono qualunquiste non hanno voglia comunque di approfondire tanti altri discorsi, tante altre tematiche, probabilmente rimarranno, diciamo, in quella posizione, ma con tante altre si può parlare, si può diciamo spiegare tante cose, comunque avere anche un buon dialogo, un buon dibattito. Riguardo alla strumentalizzazione da parte di certi politici, io penso che sia una cosa, vabbè, ovviamente vergognosa, che è da arginare, perché hanno tutti tutto il mondo, possono fare tranquillamente il loro lavoro nelle loro sedi e non certo venire a cattare qualche voto, farsi vedere in piazza. È sicuramente una cosa da affrontare, perché abbiamo un po' visto tutti quanti che alla prima occasione, appunto quella di questa lotta contro il Green, della vivisezione sui cani, si è subito stato un tentativo da parte dell'ex ministro Brambilla. Bisognerà rimboccarsi le maniche, perché quelle in cui crediamo sono veramente le lotte dal basso, quindi le lotte fatte senza nessuna delega, e bisogna sempre invitare le persone ad agire con le proprie mani, con la propria testa, con il proprio cervello, senza cercare di farsi strumentalizzare. Senti, diciamo, ci vuoi raccontare nei prossimi mesi, avete in programma delle iniziative, ci sono degli appuntamenti, poi magari se ci dai pure i riferimenti del sito, sì, insomma, allora. dove sta lì l'investigazione, dove si può trovare? Certo. Intanto niente, abbiamo un sito internet, che è esseranimali.org, che è molto curato, in cui abbiamo molte sezioni a cui abbiamo dedicato molto tempo, ad esempio ce n'è una sullo sfruttamento animale con tantissime notizie su tutte le modalità con cui vengono impiegati, utilizzati gli animali nei vari campi. Diciamo dello sfruttamento, quindi dall'alimentazione all'abbigliamento, dalla vivisezione all'intrattenimento. I prossimi progetti ancora non te li dico, perché c'è qualcosa in stallo, però preferiamo diciamo dedicargli del tempo prima di renderli pubblici. Però posso parlarti di quello che abbiamo fatto nei mesi scorsi, anche perché l'ultima iniziativa è proprio molto recente, siamo scesi in piazza con un'azione dimostrativa qualche giorno fa, sabato. E niente, intanto, come dicevo all'inizio, Essere Animali si occupa un po' di tutto, quindi dalle cene benefit vegan ai corsi di cucina vegan, cerchiamo di essere molto presenti in strada per diffondere il messaggio del veganesimo, il messaggio dell'antispecismo. Una cosa che riteniamo molto importante sono le azioni dimostrative, per cercare di diffondere, diciamo, il nostro messaggio con un impatto sull'opinione pubblica e sui media, e in questi mesi ne abbiamo fatte molte, sulla carne, sulle pellicce, l'ultima, quella di pochi giorni fa, che ci ha visto coinvolti sabato, è stata di fronte al delfinario d'oltremare, che è un delfinario molto, molto famoso, diciamo, qui nelle nostre zone, nella riviera adriatica. Riccione è una sorta di parco acquatico dove non vi è solo un delfinario, ma vi sono annessi anche acquari, animali della fattoria, quindi una struttura che rinchiude in cattività moltissimi animali. Abbiamo, è brutto dire, preso lo spunto, però recentemente sono successe due veramente tragedie all'oltremare. Si è morto prima un delfino che era molti anni che era in cattività, e è morto poche settimane dopo anche un altro cucciolo appena nato. Abbiamo fatto una sorta di azione dimostrativa, abbiamo messo un nostro attivista dentro una gabbia che voleva simulare un ascensore, e altri attivisti con i cappelli facevano informazione lì davanti all'oltremare, appunto diffondavamo un messaggio che non era rivolto ovviamente solo a questi due delfini che erano recentemente morti, queste due tragedie avvenute, ma era un messaggio di rispetto e di liberazione verso tutti questi animali che sono condannati, come dice un po' il motto antispecista, a quella che per un essere umano sarebbe la vita in un ascensore, perché non so se il paragone quanto sia efficace, cioè efficace a rendere l'idea, ma non so quanto sia veritiero. Comunque all'incirca, in base ai movimenti, al territorio che copre un delfino in natura, si stima che la sua vita dentro la vasca, la piccola vasca di un delfinario, sia equiparabile, diciamo, a quella di un essere umano in un ascensore, per rendere un po' l'idea dell'agonia, della sofferenza che questi animali devono provare tutti i giorni, animali anche un po' presi, quasi presi in giro, perché per via della loro, dei loro muscoli facciali non hanno questa espressione quasi sempre sorridente, quasi sempre contenta, e sembra, non è stupido da dire, però molte persone magari non capiscono questa cosa, comunque sono convinte che quegli animali siano felici all'interno, quindi hanno cercato un po' di spazzare questo velo di menzogna che vi è nei delfinari, come in tutte le strutture che detengono gli animali in cattività. Perfetto, perfetto, ti ringraziamo per la cortesia, per averci aspettato fino a quest'ora. E niente. Sì, l'unica. Ti sentiamo poco bene, scusa. Pronto? Ecco. Sì, adesso, pronto? Adesso ti sentiamo. Ok. Ecco, come okay. Prima facevo. Sì. E dicevi, scusa, perché quando hai cominciato a parlare eri sfumato con la voce, quindi non abbiamo sentito. No, infatti chiedevo, mi spiace per l'inizio che non sentivo tanto bene, non ho fatto in tempo a dire così che ha ricominciato, quindi non lo dico più. No, ma figurati. No, grazie di tutto, e poi soprattutto qualsiasi cosa vi serve, la radio, insomma, noi siamo qua, quindi qualsiasi cosa, anche molto voi chiamateci volentieri. Se volete diffondere l'iniziativa. Grazie, ringraziamento a Radio Rossa, a Radio Possum e a tutti quanti quelli che hanno ascoltato. Ok, grazie a te e buona serata. Salute. In bocca al lupo per le prossime iniziative. Ciao. Ciao. Viva il lupo. Ciao, ovviamente. Ciao. Ok, Barbie, è tutto tuo. Wow. È un cavallo selvaggio. Vedremo quanto sarà selvaggio quando avrò finito. E allora, così, con due canzoni molto topiche. Contagio, sabotaggio e azione. Prima Le Tormenta con La Luna. Una canzone che comunque parla di liberazione animale, di liberazione dalle gabbie. Ma essendo antispecisti, di gabbie ne conosciamo parecchie. ne conosciamo perché le gabbie vengono usate sia per imprigionare gli animali non umani, sia per imprigionare gli animali, specialmente quando si occupano di tirare fuori altri individui dalle gabbie in cui sono reclusi. E in particolare, insomma, ci sembra doveroso parlare in questa puntata di alcuni compagni che sono entrati recentemente in carcere, compagni e compagne. Vogliamo fare un pochino un aggiornamento sull'operazione Ardire, visto che sabato c'è stato il riesame per alcuni compagni sabato per alcuni compagni che sono in carcere per l'operazione Ardire c'è stato anche il processo per un'altra operazione risalente a un presunto attentato di vari anni fa. Stiamo parlando di Sergio Alessandro. Comunque Sergio, adesso ne parleremo più nello specifico, però è un individuo che la vita del carcere, che comunque già di per sé è dura, è una vita che comunque tende ad annientare l'individuo, ad isolarlo, ad annichilirlo, diciamo la sta vivendo in maniera ancora più dura per varie restrizioni che ci sono, tra cui anche alcuni problemi riguardanti proprio l'alimentazione, visto che alcuni di questi compagni sono vegani e in carcere purtroppo il cibo vegan non c'è. Una restrizione fondamentale, sì, che un po' dimostra quanto tutte le strelle che si fanno sul carcere come strumento di riabilitazione e via dicendo. Il carcere, le persone vengono annichilite e annientate nella loro individualità. Ci sono due persone vegan prigioniere, Sergio e Katia, prigioniere a cui viene negato il cibo vegan e vivono con quel poco che riescono a mangiare di vegan che passa in carcere, presumibilmente con la solidarietà dei compagni, no? Tra l'altro faccio una piccola parentesi: noi quando avevamo sentito una persona arrestata all'epoca ad aprile, durante proprio la famosa liberazione a volto scoperto dei cani da Grill, ci raccontò in trasmissione proprio che in carcere, in mezzo a tanta repressione, a tante cose negative che tutti, o meglio molti, ma forse troppo pochi, e comunque sicuramente non tutti conoscono, una cosa che l'aveva colpito era stata proprio la solidarietà di tutti gli altri carcerati, che magari davano a loro il cibo vegan che avevano, cioè la frutta, la verdura e via dicendo, per consentire di continuare a sopravvivere in quei pochi giorni che sono stati in prigione in attesa della scarcerazione, senza dover per questo, come dire, negare o la loro identità e le loro idee politiche, che sono appunto il veganesimo e l'antispecismo, né al contrario evitando così di farli patire la fame. Sì, e poi diciamo che comunque insomma, questo è uno degli aspetti, il cibo, ma fa parte di uno spettro più ampio che riguarda comunque tutti i compagni arrestati, e sono delle misure cautelari speciali alle quali sono sottoposti. Ora, senza personalizzare troppo, però appunto parlando di Sergio, si vive il fatto che lui comunque è in un regime speciale, ma naturalmente le strutture carcerarie non sono predisposte per il regime speciale, perché come ben sappiamo il carcere è in una situazione di sovraffollamento ormai da diversi anni, che con l'estate si moltiplica e si amplifica in maniera tremenda, perché comunque in una cella di pochi metri quadrati almeno 4 persone si gioca a carte, e chi vince sta 5 minuti in piedi, si mettono gli asciugamani bagnati sulle finestre. Quindi, soltanto per dare un'idea del quadro generale, in tutto ciò ovviamente le carceri non sono attrezzate per detenuti che devono subire un trattamento punitivo, repressivo ancora più forte, e quindi alcuni di questi compagni sono in isolamento totale e non fanno neanche l'ora d'aria, come ad esempio Sergio, il quale l'ora d'aria se la fa in un corridoio senza finestre, perché non può comunque entrare a contatto con gli altri detenuti e non esiste una sezione apposita nella quale lui possa fare l'aria. E questo è quanto, diciamo, un pochino sull'operazione Ardire. Noi vi invitiamo comunque a seguire www.informazione.info per gli aggiornamenti, perché comunque non finisce qui. Questo comunque è un attacco forte che lo Stato sta facendo contro gli anarchici e in generale contro chi si ribella, per dire in particolare: lasciamoli soli, isoliamoli. Noi quello che vogliamo fare è proprio rompere il silenzio, rompere questo muro. Quindi è importante sostenerli anche da un punto di vista economico, perché comunque appunto il carcere è un problema, il carcere costa un sacco di soldi, che ne dicano. Esiste un'email, arachnide@autistici.org, e poi esistono anche gli indirizzi di tutte queste persone che potete trovare su internet per spedirgli, anche se per molti di loro purtroppo c'è la censura preventiva sulle lettere e quindi non gli arriva niente. Le cartoline con scritto soltanto ciao, un abbraccio, ti siamo vicini, sembra che arrivano, però per molti di loro la posta arriva, quindi comunque è un bene scrivergli, casomai poi ritorna indietro. In tutto ciò si è sommato un altro arresto. Come annunciavamo a inizio trasmissione, venerdì c'è stata la sentenza della Cassazione contro 10 compagni e compagne che erano partecipi ai fatti del G8 di Genova, un reato molto grave, devastazione e saccheggio, che comunque è uno spauracchio che oggi sostituisce quello che una volta era l'associazione sovversiva, che veniva dato a destra e manca per criminalizzare chi si ribellava. Oggi c'è questo reato che tende a criminalizzare anche molto, soprattutto chi era presente anche se non faceva niente. Anche in questo caso lo Stato punta molto sull'isolamento, sulla repressione, sul lasciare da sole le persone, specialmente quelle che magari non appartengono a gruppi politici specifici, che non fanno parte di strutture. E invece noi dobbiamo cercare di lottare contro questo muro di silenzio anche in questo caso. E naturalmente poi uno dei compagni coinvolti fa parte di questa radio e quindi ce la sentiamo ancora più sul cuore questa cosa, e naturalmente lo salutiamo da questi microfoni. Ieri c'è stato anche un presidio di solidarietà sotto al carcere che ha prodotto i suoi risultati, visto che c'è stata una bella risposta da parte del carcere. C'è stata una battitura che poi è continuata fino a mezzanotte e i detenuti hanno iniziato a gridare amnistia, amnistia, sintomo anche del fatto che comunque in carcere c'è un problema grave che riguarda tutti, al di là delle compagne e compagni, un problema di sovraffollamento, un problema di detenzione, un problema di reati, di recidiva, che comunque pongono la questione in maniera molto complicata contro le persone e contro determinate persone, perché poi in carcere ci vanno soltanto determinate persone, non ci vanno tutte. Sì, perché c'è una vecchia frase che la solidarietà è un'arma, no? Ed è quanto mai attuale. La solidarietà può essere sia politica, ma è anche poi molte volte semplicemente umana, semplicemente per delle persone, al di là delle idee, al di là di tutto quanto, delle persone che vengono sequestrate dallo Stato, costrette a vivere in condizioni che per lo stesso Stato sono illegali, quindi non ci dovrebbero essere. Eppure, ciò nonostante, questo avviene, cioè nonostante tutti i partiti politici parlano di finanziarie, di sistema elettorale, di legge elettorale, di federalismo e via dicendo, ma nessuno parla di carcere, nessuno solleva il problema del carcere, nessuno solleva il problema di decine di migliaia di persone che vengono stipate, ammassate al di fuori di qualsiasi norma di sicurezza, al di fuori di qualsiasi elementare concetto di dignità umana. Noi a tutte queste persone vogliamo esprimere una solidarietà che, ripetiamo, può essere talvolta politica o talvolta può essere semplicemente umana. In mezzo a tante storie di persone in prigione vogliamo dare due piccole buone notizie di queste ultime settimane, cioè della liberazione di due compagne, una animalista inglese e un'altra ecologista animalista italiana. Quest'ultima è Silvia Guerini, che è stata scarcerata nei primi giorni di luglio. Silvia, Costantino Ragusa e Luca Bernasconi, chiamato Billy, sono stati in carcere per anni perché vennero arrestati. Gli altri due sono ancora in carcere. Vennero arrestati loro tre anni fa dalla polizia svizzera perché durante la perquisizione pare che la polizia svizzera ha dichiarato di aver trovato esplosivo e detonatore, un comunicato accusandoli insomma di voler preparare un attentato al laboratorio di ricerca IBM che svolgono ricerca sulle nanotecnologie. Va bene, dopo tutti questi anni Silvia è stata scarcerata. La seconda notizia di scarcerazione, quindi una notizia positiva, è quella dell'attivista inglese Sarah Whitehead. Sarah Whitehead è stata arrestata nel 2005, lei insieme ad altri 5 attivisti che furono incarcerati per la loro lotta contro il laboratorio di vivisezione Huntington Life Science. Huntington Life Science è il gigante della vivisezione nel mondo. Alla fine degli anni 90 alcuni giornalisti inglesi si infiltrarono all'interno degli stabulari di HLS, questo è l'acronimo del laboratorio, H di hotel, LS, e documentarono violenze assolutamente gratuite sui cani, come per esempio sulle cavie, per esempio cani presi a pugno e via dicendo. Da lì è nato una campagna, un movimento chiamato Shaq, che si è proposto di boicottare e di portare progressivamente alla chiusura tramite pressione, manifestazioni, inviti per esempio al boicottaggio economico di tutti coloro che sono in qualche modo legati ad HLS con rapporti di fornitura e via dicendo. E ovviamente HLS ha fatto pressione sui governi inglesi e britannici e americano, e questo è stato il risultato. Nel 2005 i primi arresti, poi successivamente l'arresto di altri attivisti americani e altri attivisti inglesi. Vorremmo ricordare che per una persona che è riuscita e che è stata scarcerata, Sara, ce ne sono moltissime altre che sono letteralmente seppellite di anni di carcere. Per esempio ci sono alcuni attivisti che sono stati condannati addirittura a 10-11 anni di carcere, purtroppo una sentenza simile alle persone condannate per devastazione e saccheggio al G8, no? Insomma, va bene, riferimenti alla campagna HLS è sicuramente il sito www.shac.net, Shac l'acronimo SHAC.net. E poi ci sono in giro su internet, se su MySpace o su altri server, gruppi di sostegno per i singoli prigionieri. Noi ripetiamo, si dice spesso, nessun movimento può esistere se questo movimento si dimentica in carcere le persone che vengono arrestate, perché la solidarietà è una cosa fondamentale per chi sta dentro in questo momento, ma anche per tutte le persone che stanno fuori, no? Certo, e anche perché poi purtroppo di prigionieri in carcere ce ne finiranno sempre di più, perché comunque purtroppo l'aria che tira è quella, e a un certo punto quando le lotte veramente incidono, il potere si difende come sa fare, e cioè con la repressione. E quindi purtroppo alla fine i compagni e le compagne impegnati nelle lotte in carcere ci finiscono. Ora però in carcere ci si può finire e rimanerci seppelliti, oppure finirci e avere intorno un supporto di persone che continuano a lottare, e la cosa è ben diversa, perché negli anni 70, comunque non dimentichiamocelo, quando lo Stato inizia ad mettere in carcere le persone e a isolarle, a sparpagliarle nei vari carceri d'Italia, si è creata una sommossa generale nelle carceri che ha portato a 10 anni di lotte nelle carceri, 10 anni di rivolte continue, e ha portato molti diritti in carcere e fuori, ed è stata molto utile per tutti, i compagni entravano, uscivano e sembrava che non cambiava niente. E allora la solidarietà, quando è reale e si fa sentire, è veramente un'arma. E per questo non dobbiamo lasciare da solo nessuno. Noi da questa radio vi invitiamo in generale a, chiaramente in ambito perlomeno animalista, ecologista, radicale, quindi antispecista, a cercare su internet i riferimenti di tutte le persone prigioniere in Italia e nel mondo. A parte Cost e Billy, possiamo ricordare le persone di Animal Equality, Egualità d'Animal, ancora sotto inchiesta in Spagna. Possiamo ricordare tutti i prigionieri ecologisti americani, a cominciare da Jeffrey Lewis. Possiamo pensare ai prigionieri in Olanda, ai prigionieri in Olanda, ai prigionieri in Inghilterra, a Daniel McGowan, agli Shaq 7, agli Shaq 4, a Dan Wodham, a Natasha e Heather e Gavin, sempre di Shaq e via dicendo. Insomma, la solidarietà è molto importante, basta mandare una lettera, basta mandare una cartolina, come diciamo prima, un saluto semplicemente, è un modo per far sentire alle persone che non vengono dimenticate. Va bene, dai, dopo questo sproloquio, purtroppo proprio col cuore in mano, perché comunque siamo molto arrabbiati per quello che è successo negli ultimi giorni, per quello che succede da sempre, ma poi chiaramente quando ti succede più da vicino l'emotività è anche un'altra. E allora questa canzone che mettiamo sono i Kalashnikov con Sonia contro la grande distribuzione, la dedichiamo a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando da dentro il carcere. Ok, eccoci di nuovo in diretta. Non lo so, con cosa stiamo cominciando? Allora, appuntamenti come al solito, stavolta abbiamo un appuntamento solo da dire, che avevamo già accennato la scorsa settimana in trasmissione. Sabato 21 al Canile Comunale di Roma, via della Magliana 856H, giornata dedicata all'adozione di cani e gatti, e poi aperitivo e cena ovviamente vegan, e poi installazioni video, installazioni fotografiche, musica, tutto per mostrare in modo allegorico, diciamo, e chiamiamolo artistico, lo sfruttamento dei cosiddetti pets, cioè degli animali d'affezione, cani, gatti che vengono comprati, venduti, riprodotti come se fossero delle merci e poi quando non servono più abbandonati in canile. È importante, sì, è importante adottare cani e gatti nelle strutture, ma soprattutto è importante cercare di lavorare a monte, quindi di combattere a monte la catena dello sfruttamento, che poi è quella che porta all'esistenza del randagismo, porta all'esistenza dei canili e porta all'esistenza dei gattili e quindi di queste carceri per animali. Adottarli, sì, ripetiamo, è importante, però come dire, non bisogna cercare soltanto di svuotare il lavandino allagato, ma bisogna cercare di riparare il rubinetto. Va bene, è una bella metafora idraulica. Comunque, sabato 21, tutto il giorno, buffet e poi scena vegan, installazioni, musica, fotografie e via dicendo. Comunque, guarda, mo dico proprio una cazzata, giusto per smorzare il fatto che hai fatto un discorso serissimo come al solito. Tra l'altro pure attaccavo un pippone alle 11 di sera, no? Sennò no, la gente non va a dormire serena se non gli attacchiamo i pipponi. No, che comunque quando stavi per dare la notizia, vabbè, voi chiaramente non potete vederci perché è una radio, però stavi aperto sulla pagina del Corriere della Sera con le biciclette. No, ho detto, ma che sta dando, tipo, i risultati di qualche tour di qualcosa? Lo sai perché? Perché gira voce che in Canada, stavo cercando questa notizia, perché gira voce, però non la diamo perché non l'abbiamo trovata, però insomma in un paese del Canada è eletto come sindaco un gatto. Ce l'hanno detto prima in radio, prima di cominciare la trasmissione, che in Canada hanno eletto sto gatto come sindaco, e quindi stavo cercando la notizia da qualche parte. Poi comunque io sono una persona eclettica, diciamo, riesco a fare due, tre, anche quattro cose. Quattro cose, esatto. Sì, sì. No, no, va bene, insomma. Tra l'altro per la puntata di questa sera qualcuno ci aveva anche consigliato di farla su il mito di Minosse, che sembra sia il primo antispecista della storia secondo alcuni, perché voleva talmente bene al suo toro che non lo voleva uccidere, che l'ha salvato dagli altri umani. Vabbè, insomma, le cavolate che diciamo a quest'ora perché ne abbiamo dette di tutti i colori. Invece no, tornando ai discorsi un po' più seri, sono usciti due pubblicazioni periodiche molto interessanti. Allora, è uscito il numero 3 di Fenrir, sì, il terzo numero, una pubblicazione anarchica ecologista e di azione diretta, di supporto ai prigionieri, di aggiornamento, di analisi sulle lotte anarchiche, di liberazione animale, umana e della terra in tutto il mondo. In questo numero ci sono vari argomenti interessanti, tra cui anche la lotta ai Mapuche, aggiornamenti su alcuni prigionieri politici come Leonard Peltier, e diciamo altre notizie che riguardano appunto la liberazione animale della terra e più in generale le lotte anarchiche di liberazione. Potete prendere contatto con i compagni che fanno questa pubblicazione all'indirizzo fenrir@riseup.net, quindi fenrir@riseup.net, e niente, oppure insomma a Milano via Cenisia 78 è l'indirizzo al quale potete scrivere. Poi invece è uscito il numero 26 di Terra Selvaggia a cura del gruppo ecologista radicale Il Silvestre, anche qui insomma un sommario piuttosto lungo che potete trovare anche in questo caso su informazione.info, e in questo caso invece se volete entrare in contatto con i compagni del Silvestre per avere Terra Selvaggia potete scrivere a Il Silvestre, casella postale 88 56 127 Pisa Centro, oppure potete mandare un'email a ilsilvestre@riseup.net. E va bene, e niente, cioè abbiamo l'ultima cosa da dire, augurandoci che se in Canada eleggono un gatto a sindaco, speriamo che a Roma alle prossime elezioni Alemanno venga abbattuto da un sorcio, che ne so, da una pantecana, da un piccione, una cosa del genere. E poi c'è ovviamente l'appuntamento classico godereccio, Mocio se ne era dimenticato, è lui che si occupa di questa cosa, non se ne era dimenticato. Non è vera questa cosa, però. Non so, adesso vi proporrà tipo qualcosa tipo pane e cicoria, cosa del genere. No, sia mai, questa cosa non succederà mai, io propongo sempre ricette zuzzissime. Allora, in questo caso è una ricetta che abbiamo rubato a vegarriot.it, perché appunto me l'ero preparata talmente bene. Abbiamo saccheggiato il web alla ricerca di una cosa da dire. No, vabbè, dai, però potevi pure non dirlo, perché la gente non lo sapeva. Vabbè, insomma, poi se scherziamo da soli, vabbè. Cobbler alle fragole. Che beh, mo, pausa, che cazzo vuol dire cobbler? Leggi. Va bene, ho detto di una bruschetta, che ne so, caffè forse con zucchero, tè con zucchero, una cosa del Ugo genere. Ugo Blair, non lo so, come si dice? Tu che sei internazionale. Ma che vuol dire? Non lo so che vuol dire, leggi sta cosa, dai. Vabbè, fai il matto però. Vabbè, il cobbler è un dolce al cucchiaio composto da una base di pesche e da una copertura dolce simile al crumble. Ma molto più... No, che cazzo è il crumble? Sarà un muffin, hai presente che cosa sono i muffin? Ah, sì. Dai, no, raga, comunque questa ricetta è buona, l'abbiamo mangiata, in realtà stiamo a fare una pagliacciata. Da qui il nome che richiama quello delle strade pavimentate di San Pietini. Il cobbler può essere dolce o salato, ripieno di diversi tipi di verdure e frutta. Allora, entriamo nello specifico della ricetta. Gli ingredienti sono 800 g di fragole, mezza tazza di zucchero, una tazza e un quarto di farina, mezza tazza di zucchero, 6 cucchiai di margarina vegetale. E qui, insomma, sulla margarina ne abbiamo parlato, fatevela da soli, perché a comprarla c'è, insomma, c'è una questione molto delicata. Legata comunque al disboscamento dell'Indonesia, sì, di molte foreste tropicali. Comunque diciamo che questa ricetta è per 6-8 persone prima di dare gli ingredienti, perché sì, uno poi se la cucina e si ritrova 25 kg di cobbler alle fragole che non sa dove mettere. Vabbè, in genere una a casa quante persone sei? Almeno 6-8 mille. dicevo, 6 cucchiai di cocco grattugiato, 6 cucchiai di latte di soia, 1 cucchiaio e mezzo di lievito per dolci, 1 cucchiaio di amido di mais, 1 pizzico di sale. Allora, ecco la ricetta. Pulite le fragole, tagliatele a metà e trasferitele in una pirofila da forno, in quelle che possono anche essere portate in tavola. Aggiungere lo zucchero e mescolare per bene. Fare cuocere in forno già caldo a 180 gradi per circa 10 minuti. Quando è trascorso circa la metà del tempo di cottura, iniziate a preparare la parte superiore del dolce. Con l'aiuto di un robot da cucina, lavorate la farina, lo zucchero, il pizzico di sale, il lievito, il cocco grattugiato e la margarina fino a ottenere un composto bricioloso. Incorporate il latte e mescolate, sempre con l'aiuto del robot. Sarebbe figo avessero veramente un robot che fa queste cose per... fino a ottenere un impasto morbido, omogeneo ed appiccicoso, del tipo che può essere facilmente preso con un cucchiaio. Se vedete che è troppo asciutto, aggiungete un altro cucchiaio di latte di soia. Tirate fuori dal forno la pirofila con le fragole e copritela con l'impasto, disponendolo a cucchiaiate. La ricetta originale dice di non livellare la superficie per ottenere l'effetto San Pietrino, ma in parte si può, insomma, si può pure livellare se uno la vuole fare più precisa. Bisogna comunque tenere conto che una volta in forno l'impasto tenderà ad allargarsi, quindi anche la teglia è un po' più alta. Dopodiché cospargere con un paio di cucchiaiate di zucchero e rimettere in forno a 180 gradi per circa 35 minuti o fino a quando la copertura non sarà già dorata. Il massimo sarebbe quello di servirlo caldo, però insomma con sto caldo credo che sia pure meglio servirlo freddo. E va bene, l'ultima cosa, ce ne siamo ricordati adesso, il 27 luglio cominciano le Olimpiadi di Londra 2012, e boicottate soprattutto chi le sponsorizza e chi le promuova. Tra gli sponsor delle Olimpiadi di Londra ci sono due che sono particolarmente zozzi. Il primo è la Procter & Gamble, che è una sorta di gigante multinazionale della vivisezione, è l'unica multinazionale che non sperimenta soltanto gli ingredienti delle singole sostanze, dei singoli prodotti, quindi le singole sostanze che vanno a comporre il prodotto, ma anche il prodotto finito, questo per cautelarsi eventualmente da citazioni, da cause di danni dei consumatori. E quindi è responsabile del massacro di ogni anno di milioni di animali. Procter & Gamble è un marchio che è una ditta che produce una quantità enorme di marchi di uso comune, dal dentifricio a Z alle patatine Pringles, ai rasoi Gillette e via dicendo. Trovate tutto sul sito pngkills.com. La seconda azienda con parecchi scheletri nell'armadio che sostiene Londra 2012, a parte McDonald's, perché c'è anche McDonald's, è la Dow Chemical. La Dow Chemical è un'azienda americana di chimica e di prodotti industriali ed è diventata proprietaria della Union Carbide, e lo è diventata recentemente. La Union Carbide a sua volta è stata l'azienda responsabile nel 1984 del disastro ecologico di Bhopal in India. Che cosa è successo a Bhopal, in questa città, in questa località indiana? Dagli stabilimenti locali della Union Carbide, dove ovviamente le misure di sicurezza erano pressoché assenti, si è verificata la fuoriuscita di un gas particolarmente velenoso, adesso non ricordiamo il nome esatto, che in poche ore ha causato decine di migliaia di morti tra le persone e gli animali, e soprattutto ha causato danni ecologici permanenti, tant'è che ancora oggi nascono bambini deformi, nascono bambini con vari problemi e via dicendo. La Union Carbide, aiutata in questo dalla giustizia sia americana che dalla giustizia indiana, è stata condannata a risarcimenti pressoché irrisori. I sopravvissuti di Bhopal e gli attivisti ecologisti e gli attivisti politici in India hanno chiesto al comitato organizzatore di Londra 2012 e al CIO, al comitato olimpico internazionale, di rifiutare la sponsorizzazione da Dow Chemical, la quale dal canto suo sostiene di non dover rendere conto di nulla a queste persone. E ovviamente il CIO e il comitato organizzatore di Londra 2012 hanno declinato la richiesta, perché ovviamente pecunia non olet, neanche quando puzza del sangue di decine di migliaia di esseri viventi. E va bene, niente, tutto questo per ricordare appunto che il nemico è sempre tra di noi, si annida in ogni scaffale del supermercato, in ogni prodotti di uso comune. È importante sempre in qualche modo, no, ricostruire la catena che porta quello che c'è dietro a un uovo, quello che c'è dietro a un detersivo, quello che c'è dietro a un dentifricio, quello che c'è dietro a un pezzo di carne, a un pesce, a un formaggio e via dicendo. Vabbè, credo che per quest'ultima puntata così abbiamo finito e non lo so, voglio fare qualche considerazione di fine stagione? Ma speriamo che vi piaccia questa trasmissione, vi sia piaciuta in questi mesi, questa è l'ultima puntata prima di luglio, poi torniamo comunque, che ne so, tardo agosto, metà agosto, sì. I primi tardo di agosto, perché diciamo sì, noi siamo modaioli, dobbiamo andare in Costa Smera. Dove andiamo quest'estate? In Costa Smera? Sì, quest'anno ti invito nel mio yacht, se andiamo a bere una cosa in acque internazionali, facciamo delle scommesse e combattimento dei galli. Bravo Mocio, però io c'ho una mezza cosa con Flavio, con Briatore, quindi non so se posso venire. Magari ci incontriamo. Ti ci vedo bene a Panza all'aria vicino vicino a Flavio, certo. Sul tuo yacht, sempre quello là, ovviamente. Sì, 40 metri. Ovviamente, niente, va bene. E chiaramente mangiando aragoste di soia, però. Sì, sì, sì, è certo. Dai, va bene, vi salutiamo a tutti. No, bene, anche internazionali possiamo mangiare pure quelle vere. Certo, pure quelle vere, è vero. Dai, stiamo scherzando, ovviamente. Non si sa mai. Dai, Flavio, non ti offendere. Ora diciamo che scherziamo, ma poi dopo ci si vede tutti, si fa Valdoria come vecchi tempi. Con Flavio e con Silvio. Vabbè, dai, allora niente, stavi per fare i saluti. Purtroppo oggi non ci sta l'altra compagna che ci ha accompagnato per tutte queste trasmissioni. Non ci sta pure il quarto compagno, no? E non ci sta pure il quarto compagno, sì. Vabbè, comunque li salutiamo se ci stanno ascoltando e gli auguriamo una pessima serata a loro due e una buona serata a tutti quanti gli altri, va bene? Va bene, e naturalmente un abbraccio speciale lo mandiamo a Sergio, a Katia, a Fagiolino e a tutti e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Animali, umani e non. Ricordiamo i contatti, il blog, comunque lo continueremo ad aggiornare in queste settimane, in questi giorni. Il blog è radiopossum.noblogs.org. E sì, e poi l'email, ogni volta facciamo questo teatrino, però l'email ancora è lagazzaladra@inventati.org, appunto, retaggio di quel passato, dei famosi 10 minuti prima della prima trasmissione, nei quali ancora ci chiamavamo la Gazzaladra. Poi per fortuna abbiamo cambiato nome, però purtroppo abbiamo scelto un altro nome di merda, se posso dirlo. Tu che l'avete scelto del nano, io no. No, allora, io volevo che ci chiamavamo le Blatte. Poi iniziamo a dire cose. Bello, cioè il blatto è bello, certo. Vabbè, va, finiamola qua. Facciamo pure i cori, sono brutti. Sono neri. A sfumare il mocio. Un saluto a tutte e tutti. Buon'estate e niente, buona serata. Ciao.